mano armata e penso, rimane un silenzio di un istante ripensamento. Cercare il tempo è come un ago in un pagliaio, come cercare la vita in un momento sbagliato. Lotto contro il tempo con la vita e dilago. Vado, cado, ma dove cazzo vado? Ogni speranza persa per ogni attimo vissuto, come quando ho chiesto aiuto e non c'era nessuno. Stacco la spina solo per un momento, anche solo per un secondo. È una lotta contro il tempo, non serve insistere sull'argomento, non serve perché è solamente perdita di tempo. Dare per ricevere, ricevere per dare. Non ho manco il tempo per respirare, per fare, per dire, per fuggire. Ma dove? Per comunicare mancandomi le parole. È una lotta con il tempo e tu chiediti perché. È una lotta con il tempo, anche se tempo non ce n'è. Lotto con il tempo finché ce ne sarà. È una lotta con il tempo perché è lui che morirà. Lotta con il tempo, tu chiediti perché. È una lotta con il tempo, anche se tempo non ce n'è. Lotto con il tempo finché ce ne sarà. È una lotta con il tempo perché è lui che morirà. E il tempo che mi insegue, io cambio verso. Adesso ci riesco, adesso me ne esco. Magari ci riesco, ma in modo diverso. Se vincerà il tempo vorrà dire che ho perso. Vedo troppo sangue perché tempo l'ho ferito. Vedo amore perché tempo di amare infinito. Sento le lancette, allora non è finito. Tempo è che ieri il mio peggior nemico. Faccio questa sfida, è giusto mettermi alla prova. Non sbaglio quando dico che il tempo lo si trova. Mi dicono che devo dedicare tempo a me. Non seguo il tempo, tanto è lui che segue me. Gioco con lui perché è una frenesia. Tempo su sto pezzo è una splendida poesia. Non voglio pensarci, il tempo è la mia rovina. E se lui rimane, sarò lì ad andare via. È una lotta con il tempo e tu chiediti perché. È una lotta con il tempo, anche se tempo non ce n'è. Lotto con il tempo finché ce ne sarà. È una lotta con il tempo perché è lui che morirà. Lotta con il tempo, tu chiediti perché. È una lotta con il tempo, anche se tempo non ce n'è. Lotto con il tempo finché ce ne sarà. È una lotta con il tempo perché è lui che morirà. Gioco a carte scoperte, tanti che non varo. Lotto con il tempo perché il tempo è denaro. Tra il chiaro e l'oscuro ci vedo molto chiaro. Come la morte istantanea non c'è riparo. Dammi il tempo per pensare quello che rimane. Odio il tempo perché con me fa l'infame. Dammi il tempo per sbagliare, è giusto che io sbaglio. Ora come ora è diventato il mio bersaglio. Continuo ad aspettare sapendo che peggio per me. Io non gioco, è lui che si prende gioco di me. Lo prendo come viene, usandolo come minaccia. L'hai bisogno e prima sbatterti la porta in faccia. Le lancette girano, per me è una fissazione. Gli inconscio si ammala, ma non c'è medicazione. C'è una domanda, tutto, chiediti come funziona. Si sprecano secondi, pensa che è già passata un'ora. È una lotta con il tempo e tu chiediti perché. È una lotta con il tempo, anche se tempo non ce n'è. Lotto con il tempo finché ce ne sarà. È una lotta con il tempo perché è lui che morirà. Lotta con il tempo, tu chiediti perché. È una lotta con il tempo, anche se tempo non ce n'è. Lotto con il tempo finché ce ne sarà. È una lotta con il tempo perché è lui che morirà. Lotta con il tempo. Lotta con il tempo. È una lotta con il tempo.